Conclusione, San Michele patrono delle povere anime. Una povera anima afferma, egli non è soltanto il testimone quando viene proclamata la sentenza, è anche esecutore della divina giustizia. E accompagna l'anima dopo la completa soddisfazione nella beatitudine eterna. Egli è compassionevole con noi e ci incoraggia nel nostro dolore parlandoci del cielo. Talvolta egli viene in compagnia della Beata Vergine che noi vediamo corporalmente nelle sue feste. Nelle sue feste essa viene a trovarci e poi ritorna in cielo con molte anime. Anche il nostro angelo custode viene a trovarci.